Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. From somewhere. Yes. Yes. I'm George. George McFly. I'm your density. I mean, your destiny. Time. that you will see how a war might save us, how a war might save us. We believe in time that you will see the institutions of the world will only serve to enslave. The signs and realize that living's a battle. For all the times we cried, absorbed the lies and realize life's not a rehearsal. Vado a riprendere un vecchio slogan. eclettica, o del come creare un'atmosfera con un flusso di musica adagiata comodamente tra incipit letterari e spezzoni cinematografici. Questo era un vecchio slogan, ma direi che è ancora validissimo. Eclettica, che ha cominciato la sua seconda parte qua sulle frequenze di Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni. Eclettica, che è disponibile non solo via etere, via internet o via satellite negli orari di trasmissione, ma anche in podcasting, quindi in orario e nel luogo a voi preferiti. Questa seconda parte di Eclettica si è aperta con gli Young Sensation del sud-est dell'Inghilterra, il brano era Happiness, ed è poi proseguita con una produzione Arts and Crafts, una delle ultime produzioni Arts and Crafts. Young Galaxy è il nome del duo di Montreal, duo un maschio e una femmina, che ci ha fatto ascoltare Swing Your Heartache. E Vanda Veer invece è l'artista di Washington DC che andiamo ad ascoltarci. C'è un po' di Nick Drake, c'è un po' di Bob Dylan, c'è un po' anche di se stesso in questa However Many Takes It Takes. Go swimming in the deep end, I find out where your faith begins. You're waiting for an answer that's acceptable. The current sweeps you out to sea and it keeps you guessing helplessly. You're praying for a savior who's exceptional, someone who'll lift you from your knees and save your wounds, hand you the keys and offer you the kingdom of your dreams. But nothing's ever as it seems. You find yourself further downstream, alone, save for the echoes of your screams. Ah, oh, honey, fairy tales are prone to tease. Candles burn you warm and safe, you lock your door, control your space and curtains drawn. You think that you're impenetrable, but demons, they don't live outside. They burrow deep where they can hide inside a safe. You will still feel vulnerable. You draw a bath and pour some wine. You drink yourself into another time where you feel truly free. Water's rising overhead and you wake to find yourself in bed. You're gasping for breath that's hard to breathe. Oh, honey, dreams are really what they seem. Oh, however many takes it takes. Well, step outside into the sun, let it dry your eyes and run around. Feel the warmth underneath your skin. The clouds will soon move in again. You can't expect to always win. You got to take it as it comes. The marching bands and beating drums play familiar songs for the alum. We all got scars, but we don't like to show them. Sometimes it's better to be strong. We all got to be moving on. You got to walk a million miles. Ah, oh, honey, go walk 'em with a smile. However many takes it takes. All'Étoile de Berger ti avvertono prima, con tanto di cartello sul vetro. La nostra macchina ha più di 50 anni, non chiedetele caffè ristretti. Ma è per risparmiare, rimanendo fermi alla malinconia tranquilla di chi mandava avanti il bar 3 o 4 generazioni fa. E io ci vengo anche per questo, è uno dei tanti cambiamenti a cui ho fatto l'abitudine e che mi hanno portato a preferire questa broda tiepida al caffè caramelloso che bevevo un tempo. O forse la verità è che non ho mai vissuto una vera stagione d'amore per il caffè. Questo era l'incipit di Punti di fuga, di Pino Cacucci. Okay, so right around 9 o'clock, she's going to get very angry with me. Why is she going to get angry with you? Well, because, George, nice girls get angry when guys take advantage of them. Oh, you mean you're going to go touch her on her... No, no, George, look, it's just an act, right? È il momento di Londra, all'interno di Eclettica in questi minuti. Infatti ci siamo appena ascoltati i Stuffy The Fuses, che provengono per la precisione da Brixton, un album Angels Are Ace prodotto da Steve Albini, dal quale ho estratto Josie Is An Idiot. Prima di parlare del prossimo gruppo londinese, però vi devo ricordare anche che in precedenza da Austin, Texas, ci siamo ascoltati di Octopus Project con Truck. Ritorniamo a Londra per parlare dei Day One, che avevano esordito nel 2000 con la gran cassa della Virgin. Day One che ora invece ritornano con One Little Indian, un singolo interessante, quello che sta per arrivare. Si tratta di Bad Before Good. Gotta get bad before it gets good. Gotta get bad before it gets good. Gotta get bad before it gets good. I want it good now, but it's gotta get bad before it gets good. That's what you say. It's gotta get bad before it gets good. See, stick with me, you know that you should. Cause it's gotta get bad before it gets good. You say trust me, but just me. Put your faith in me, then wait patiently. Keep on telling me lies, I'll believe you, believe you. Keep on telling me lies like I need you, I need you. You say it's hard now, but good things come from this. So I'll keep on living on your promises. Before it gets good, it's gotta get bad before it gets good. It's gotta get bad before it gets good. I want it good now, but it's gotta get bad before it gets good. That's what you say. It's gotta get bad before it gets good. See, stay with me, you know that you should. Cause it's gotta get bad before it gets good. What you used to say, you used to do. If you told me something, I'd know it was true. See, there was a time I could believe you, believe you. But this time, I could see through, see through. I used to trust before I knew that there was a difference between what you say and what you do. Before it gets good, it's gotta get bad before it gets good. It's gotta get bad before it gets good. I want it good now, but it's gotta get bad before it gets good. That's what you say. It's gotta get bad before it gets good. See, stay with me, you know that you should. Cause it's gotta get bad before it gets good. You tell me lies, but you do it with style. Saying it'll come good in a little while. You keep on spinning your words that beguile. Then you break your promises with a film star smile. You say about what do you do? What do you do? You say about what do you do? What do you do? Don't care what you say. Just show me what you do. Show me what you do. L'America non è mai stata innocente. Abbiamo perduto la verginità sulla nave durante il viaggio di andata e ci siamo guardati indietro senza alcun rimpianto. Non si può ascrivere la nostra caduta dalla grazia ad alcun singolo evento o insieme di circostanze. Non è possibile perdere ciò che non si ha fin dall'inizio. Questo era l'incipit di American Tabloid di James Elroy. Thank you. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 2, volume numero 4. Indice 17 Evergreen, Guster, Cancel the Astronauts, Meredith Bragg, Hot Springs, Robert Wyatt, Young Sensation, Young Galaxy, Van der Veer, The Octopus Project, Stuffy the Fuses, Day One, e per chiudere vi siete ascoltati da Londra Sarando. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.